Progetto WWF, intervista 3, Michele Marzola. Mi trovo con Michele, siamo nella sala di rappresentanza del Museo di Beriguardo e partiamo con le domande difficili. Voghiera ieri, oggi e domani. Bene. Da cosa vuoi partire? Cosa ti ispira più a cominciare? Com'è Voghiera? Come l'hai trovata tu quando ti sei trasferito qui per motivi di lavoro, studio, nascita? Puoi partire anche da ieri, per quello che posso ricordarmi io. Io mi sono trasferito, io sono nato a Bologna e mi sono trasferito, i miei genitori mi hanno portato qua in età scolare, cioè quando ho cominciato la prima elementare, nel 74-75. Quindi diciamo il mio ricordo di Voghiera comincia nel periodo scolastico, per le elementari. In effetti io, avendo frequentato le elementari qua, sono stato testimone oculare della prima campagna di scavi al mio paese dove risiedo, a Voghenza, che le maestre ci portavano a vedere quando gli archeologi lavoravano, e quindi ho assistito all'apertura della prima tomba, che ci sono anche in giro da qualche parte, che l'avevamo trovate delle foto, in cui ci eravamo proprio noi delle scolaresche attorno allo scavo mentre la gru sollevava il coperchio del sarcofago. E poi come ragazzini andavamo anche in giro per gli scavi nel pomeriggio e abbiamo trovato, mi ricordo che dopo la portavamo al dottor Cirelli, che è stato il fondatore dell'antiquarium e il promotore che era il medico del paese, il promotore della nascita del museo archeologico, i sesterzi in bronzo o in rame del primo e terzo secolo. Abbiamo trovati che dopo erano diventate quasi un surplus, perché ce n'erano talmente tanti, come adesso se perdessimo un centesimo se ne trovi 30, come ora meno. Esatto, cioè quando ne hai uno ne è sufficiente, tanto non è questo. Com'è stato toccare così con mano la storia, poter anche semplicemente camminare in mezzo? Ma da bambino non te ne rendi conto, sette anni, era più che altro l'evento, le tante persone che arrivavano a Voghenza, in un paese così piccolo, ma tu così piccolo come bambino non hai la percezione di ciò che avevi davanti, insomma. Però era l'emozione di vedere così tante cose nuove e persone Quello assolutamente è stato molto bello come cosa. Addirittura mi ricordo che io abito proprio, come la mia abitazione è di fronte al Fondo Tesoro, che è il secondo sito in cui è stato trovato parecchio materiale che è esposto qua al museo, e anche lì dopo gli scavi sono stati richiusi, però tanto materiale, io l'ho visto dal vero, gironzolando tra gli archeologi, insomma, è stato molto, molto bello, molto formante. Io poi mi ricordo, a proposito di quello, anche un libro che mi regalò la mia maestra, per quando feci la cresima, che la feci in quarta elementare, sull'archeologia egizia. Anche lì è stato un qualcosa di bellissimo, cioè, è stato un avvicinamento, insomma, diciamo che io nell'archeologia ci sono caduto dentro come Obelix nella pozione magica nel cartone animato, sai che Obelix era forzuto perché era caduto nella pozione, no? Ecco, io nell'archeologia ci sono caduto dentro, senza volere, c'ero, perché è una cosa, cioè non la apprezzi perché per te è una cosa naturale, ce l'hai attorno. Ci vivi attorno. È un po' la nostra maledizione come italiani, di avere così tanto bello, così tanta storia in mezzo a noi. È quello, perché chi viene da fuori rimane estasiato, fa: ma perché voi? Ma perché noi, per noi è una cosa naturale, come per uno di Roma è vedere tutte le sante mattine l'anfiteatro romano, cioè il Colosseo. C'è nato attorno, cosa vuoi fare? Per lui è un dato di fatto, come per un parigino vedere la Tour Eiffel quando è nato. Sì. Fatto sta che noi numericamente abbiamo tante di quelle opere che nessun altro ha, quindi è un colpo di fortuna, ma è anche una responsabilità, a mio avviso. Come dico a tante persone, essendo come che tante persone che vengono da fuori, ed essendo un volontario che si spende nella Proloco appunto per cercare di valorizzare il proprio territorio, è un vanto che noi ci vantiamo tanto quando andiamo all'estero, però è anche una nostra responsabilità. Cioè, no, dobbiamo smetterla di delegare agli altri. Perché, come mi diceva una signora che era in visita un pomeriggio, che ne abbiamo parlato, a me piace intrattenere proprio le persone quando vengono qua a trovarmi, a trovarci noi. Il discorso è questo qua. Noi abbiamo, ad esempio, il bene Belriguardo, con il suo museo. Allora, il discorso, ma ci serve, perché è stato, c'è da ristrutturare, servono denari, dico, ma il denaro in sé per rimettere in piedi un bene, bene o male lo si può trovare, perché ma lo Stato, ma la Regione, ma l'Unione Europea, insomma, un po' alla volta lo si mette in moto. Ma il problema è che non, le cose non vanno avanti da sole, servono esseri umani, servono persone che le portano avanti. E quindi c'è poco da fare. Se io ho un bene nel mio territorio, spetta anche a me conservarlo. Non posso pretendere che venga una società, perché il comune si deve accollare la responsabilità, deve cercare di trovare delle società storiche che possano tutelare il bene. Cioè, non deve essere sempre ricondotto a un qualcosa di economico, ma deve essere anche una tutela che fa il residente del territorio. Se io trovo un qualcosa di particolare, mi sento responsabile di quel reperto trovato. E adesso, come succede spesso, quando uno trova nell'ambito della sua trovi un reperto nella tua residenza, tu sei tenuto, cioè un tempo uno diceva si nasconde perché non voglio avere problemi, ma perché? Uno va alla sovrintendenza, glielo fa vedere, se il bene è stato trovato ben venga, se viene tutelato e viene registrato, e sono anche d'accordissimo che ti può anche essere consegnato e tu ne hai la tutela di quel bene. Perché no? Cioè, è inutile sbandierare quando ce l'abbiamo, ma tocca a lui farlo, tocca all'altro farlo. No, ogni cittadino deve essere responsabilizzato per quella cosa. Quindi dici che c'è un trattamento un po' troppo emergenziale o quasi di minaccia, cioè il patrimonio che va perduto è una minaccia, ma non, il pensiero non va oltre. Cioè, non c'è capacità creativa di creare qualcosa di positivo intorno a queste cose. Perché alla fine i soldi per rimettere in sesto Belriguardo sono arrivati, ma non per fare oltre a quello. Cioè, la torre è in pericolo da un punto di vista strutturale, architettonico. Ma quello ci si arriva. E i soldi però sono arrivati per quello, ma quello non per farsi dopo il museo, praticamente. Esattamente. Cioè, nel senso che arrivano, ma non sono sufficienti per la gestione che deve essere una struttura del genere, ma non è che deve essere obbligatoriamente a carico di un'autorità pubblica. Io sono ben felice se dei privati possono compartecipare a delle opere del genere, perché come parlavo con una persona che noi abbiamo, è successo quel discorso di Ferrara, non so se l'hai sentito, del grattacielo, quel maxi condominio. Sì, che abbiamo abbiamo tra l'altro anche due ragazzi che hanno un appartamento, che sono venuti a fare delle attività qua al Belriguardo, che li ho sentiti subito la sera, che dell'evacuazione, che loro erano proprio fuori subito perché erano della Torre B. Adesso lì c'è un problema fondamentale, che è stato: le amministrazioni si stanno già rimbalzando, ma quelli di sinistra, sono 30 anni che si parla di quel luogo lì. Quindi adesso, per rimetterlo in sesto, si può fare, perché è stato fatto con il Palazzo degli Specchi, un centro dirigenziale che sembrava dismesso, che stava andando in rovina, e è stata tirata fuori una cosa meravigliosa. E lì per il palazzo, le torri del grattacielo di Ferrara, bisognerà fare una collaborazione privato-pubblico. I denari ci sono, ragazzi, perché le società immobiliari, come hanno fatto al Palazzo degli Specchi a recuperarlo in maniera meravigliosa, si può fare anche sul grattacielo. Perché immagino le abbiano recuperato poi con lo scopo di rivenderlo di nuovo? Assolutamente sì, ci deve essere una collaborazione tra proprietari, amministrazione pubblica, sì. Che l'amministrazione pubblica deve solo una cosa, la politica: creare le condizioni. Cioè, è inutile che adesso Tagliani, l'ex sindaco, si schieri contro Fabbri e viceversa, si rimpavano la responsabilità. Il patatrac c'è, come sarà anche a Niscemi. Ho visto l'intervista all'ex sindaco, adesso si stanno rimpallando le problematiche sulle costruzioni in prossimità del crollo. Sì. C'è poco da fare, ragazzi, la cosa c'è, quindi adesso bisogna trovare una soluzione. In tutte le cose così. Allora, visto che si parla di soluzioni, direi di passare a Voghera oggi. Qual è la tua opinione, il tuo pensiero di come si sta muovendo Voghera oggi e come si dirigerà in futuro? Il problema fondamentale di Voghera adesso è che c'è una scarsissima popolazione giovane. Quindi tutto ciò che si è stato fatto a Voghera è stato fatto da una fascia d'età di persone che oramai sono di età di anziani. E purtroppo non c'è il ricambio. La cosa fondamentale è quella lì. Noi abbiamo un enorme plesso scolastico che ha un'attrattiva pazzesca dall'esterno, però è tutta gente da fuori, quindi sono tutti ragazzi che arrivano da famiglie all'esterno di Voghera e quindi non c'è un crogiuolo che possa far nascere dei gruppi, a mio avviso, che possano proseguire il lavoro dei padri o dei nonni. Quindi frazioni tipo Gualdo, le altre frazioni piccoline sulla strada tra Ferrara e Porto Maggiore. Ha maggior ragione, lì io faccio l'artigiano in questa zona, il mio cliente di riferimento è un ultra 65enne, minimo, cioè, per fortuna adesso sono arrivate alcune coppie giovani, è arrivata proprio dietro di casa mia, che sono venuti a abitare nella casa dei nonni, una coppia giovane, la ragazza è incinta che sta partorirà tra qualche settimana, si sono trasferiti qua perché si sono informati del plesso scolastico di Gualdo, del primo nido e della materna, hanno visto che è un territorio, io gliel'ho detto, avete fatto bene, se vi piace la vita di paese, perché anche quella lì è una direzione che uno quando mette insieme una famiglia deve capire, preferisco un contesto cittadino, preferisco un contesto rupestre, cioè quello, insomma, lì bisogna capire la direzione che vuole andare. Io sono nato a Bologna, dietro alla cattedrale di San Petronio, però dopo un po' i miei genitori hanno detto torniamo al paesello. Sì. E se ti devo dire la verità, io adesso a 56 anni non tornerei mai a abitare a Bologna, neanche se la garisenda ristrutturata mi fanno l'attico, così tutte le mattine mi apro la finestra e guardo tutti i pirla di Bologna che mi girano attorno. No, io non ci tornerei mai in un contesto cittadino ad abitare. Come Porloco, che immagine cercate di dare di Voghera all'esterno? Oddio, questa qua, fino adesso la Porloco, qua che mi incampo, l'aiutino da casa. Diciamo che fino adesso la Porloco è sempre stato un ente che ha promosso le poche attività che c'erano nel paese, ossia la sagra, le attività ludiche dei bambini. Noi siamo entrati, io e la mia socia, invece con un'altra prospettiva, quella che la Proloco sia, anche a livello culturale, una promozione del territorio. Quindi si fa, la Proloco si deve fare promotore, come è in tantissimi altri contesti, di attività culturali sul territorio, in maniera da attrarre persone su questo territorio per vedere ciò che c'è a Voghera. Anche perché la gente arriva a Voghera, sinceramente, e non sa di questo luogo, purché che come voi storici oppure persone che sanno e hanno studiato specificatamente il periodo storico sanno della presenza di questo luogo, perché altrimenti la gente arriva qua quasi come se fosse un infortunio, ma abbiamo visto sta roba, ma cos'è? Allora, ti do una notizia, ieri abbiamo avuto la prima visitatrice nepalese al museo. Lo so perché ero già anticipatamente avvisato e ho già sentito anche la sua referente ieri sera. Bene. E infatti adesso la inviteremo, dato che rimarrà a studiare tutta per un anno qua a Ferrara, vedrà che la ragazza nepalese, anzi adesso gli porteremo una bicicletta a Ferrara in maniera che sta ragazza possa anche girare in maniera... È un po' di cicloturismo. Beh, gli hanno dato un appartamento in affitto lì a Ponte Gradella, che è nella prima periferia di Ferrara, tenendo conto le varie sedi di economia di Ferrara, dopo in bicicletta arriva dove vuole, insomma. No, ma detto che tu l'hai visto, io non l'ho visto. Però tu lo consideresti come un esempio di successo di promozione culturale per Voghera? Assolutamente sì, perché questa ragazza, se rimane un anno sul territorio e continuerà a girare per il mondo, è una promozione. Assolutamente. Intanto, perché dal Nepal, dopo essersi laureata, ha scelto l'Italia? E tra Venezia, Milano, Roma, ha scelto Ferrara. Qua è capitata per caso, perché questa mia amica ha portato, è residente qua a Voghera, quindi l'ha portata a vedere Bel Riguardo, e tu l'hai visto, come mi hanno descritto ieri sera, come quando ha visto il plastico è rimasta di stucco. Cioè, lei arriva da Kathmandu, che è una città di 14 milioni di abitanti, sì. Cioè, è capitato qua che siamo quattro anime, quindi puoi capire. Però io sono dell'idea che può capitare qui per caso, ma resterà qui non per caso. Assolutamente. Quando uno sedimenta, quando uno semina, prima o poi raccoglie. Può darsi che arriveranno degli altri nepalesi, sono convinto. Voghera domani. Beh, sono qua. Come la vedi? Come la vorresti vedere? Che traccia ti piacerebbe lasciare per il futuro, qui su questo territorio? Beh, diciamo che il lavoro che stiamo facendo adesso sia costruttivo per un domani, che lasci una traccia. Che non sia una traccia digitale, perché come parlavo con il tuo collega Matteo, adesso voi lavorate sul digitale, come dicevamo ieri, il discorso dei testi, che fa, se ci fosse la digitalizzazione di tutti gli archivi di Stato, io cliccherei lì. Esatto. Però io ti faccio una domanda da storico studioso. Io faccio fatica fisicamente andare in un archivio a spulciarmi le mie, quelle che ti ho mandato ieri sera, le mie 700 lettere della signora Lucrezia. Sì. Ma tra 200 anni mi dai la garanzia che tu quello che mi hai registrato adesso io lo ritrovo con la digitalizzazione? Ti posso dare le stesse garanzie che ti posso dare dell'archivistica fisica. Okay. Poi, però, il vero grande salto di qualità che giustamente tu porti nel passaggio dal fisico al digitale non è una sostituzione, ma è un accompagnamento. E secondo me il problema più grande è mantenere quello che si chiama il vincolo archivistico, cioè quello che lega una cosa in carta, come certo. Per esempio è l'appartenere alla stessa busta, trovarsi nello stesso posto fisico, trasferirlo nel digitale. Si rischia, se non si fa un salto, se non si fa una valutazione attenta e soprattutto una riproduzione di questi legami, che altrimenti andrebbero persi. Sì, ti do ragione, facendoli in maniera assolutamente disattenta si rischia di perdere più di quanto si guadagna, soprattutto se tratti la copia digitale come sostituto di quella fisica e non come integrazione. Io ti faccio un semplice un esempio banalissimo: le banche. Le banche, ad ogni operazione digitale corrisponde una azione fisica con la carta, perché loro archivino tutto su carta. Sì. Perché se un bug ci fa fuori i server, il tuo conto corrente diventa zero. Invece tu vai a dire: Ciccio, io ci avevo 1.000 euro, io li voglio i miei 1.000 euro. Se il tuo macchinetta maledetta mi dice zero, me ne può fregare di meno, io i 1.000 euro ce li avevo. No, una massima dell'informatica dice che per tenere qualcosa veramente al sicuro tu dovresti conservare qualcosa in triplice copia, in due formati diversi, di cui almeno uno fisico, e con una copia in un'altra posizione. Quindi per cercare di limitare anche tutti i possibili danni fisici. Sì, per esempio, se c'è un incendio in banca, si bruciano tutti i documenti, c'è la copia digitale. Se c'è un bug alla parte digitale della banca, c'è la copia fisica. Beh, quando farò il testamento, però lo do in mano in cartaceo al notaio. Non te lo scrivo su una mail. Secondo me dovresti farle entrambe le cose. Cioè, mia opinione, poi da giovane fresco, mettiamola così, da nativo digitale. Anzi, sai cosa faccio? Ne faccio una duplice copia e poi una la nascondo dentro il sarcofago qua all'ingresso. Va bene. Ok? Se si sono conservati per queste migliaia di anni, sicuramente okay. Si verranno conservati anche per sotto sarcofago. Mi sembra un'ottima idea. Potremmo farlo come servizio a Bel Riguardo. Tipo un frammento di eternità, e se vuoi davvero conservare qualcosa per sempre, affidala a Bel Riguardo. Infatti stavo pensando al mio carissimo amico che ha le pompe funebri qua, se può essere tumulato dentro al sarcofago. O anche qualcosa ispirato allo stile. Potremmo anche fare, tanto abbiamo tombe qua in giro. Uno in più, uno in meno. È un peccato di... È il patrimonio del territorio anche quello, nel suo piccolo. Perché no? Ora dovrò studiare un bel contenitore, insomma, che faccia bella figura tra 300-400 anni. E soprattutto il mattone per evitare gli episodi di vampirismo, come abbiamo detto della vampira di Voghenza. Una delle tombe, la tomba di Sanoveci, un mattone appoggiato sopra la ragazza, sì. Proprio come per evitare casi di vampirismo, che già anche i latini credevano in queste cose. Benissimo. Allora, il museo che vorrei, anche se in parte l'abbiamo affrontato, Museo Civico di Beriguardo, che cosa manca? Anzi, che cosa c'è e che cosa manca? Beh, l'unica, adesso, una delle poche cose che sono è il discorso promozionale, perché insomma sì, si fa veramente fatica a farlo conoscere fuori, anche perché c'è anche da dire una cosa, che i musei civici italiani sono veramente tanti e molto frammentati, però nessuno riesce a fare rete, a fare organicamente una mappa in maniera tale che una persona possa scegliere un percorso e venire a visitare. Nonostante il riconoscimento UNESCO? Perché per riguardo è un sito UNESCO in teoria. Sì, lo so, ma è veramente, nonostante tutto, non è veramente poco frequentato. Okay. Per le sue potenzialità, a mio avviso. A mio avviso è poco frequentato, sebbene siamo un sito UNESCO. Perché c'è chi viene perché sa che è un sito UNESCO, ma tantissima gente ci arriva qua per caso. Di nuovo si torna sempre al problema che nella bolla tra Ferrara e Porto Maggiore non ci conoscono, fuori quelli che vengono anche un po' per selection bias sanno tutti che cos'è per riguardo. Assolutamente sì, per esempio qua c'è una sorta di competizione tra noi e il Verginese, perché ogni società che gestisce il museo tira l'acqua sul mulino, giustamente. Okay. Non c'è tipo un biglietto integrato per tutte le delizie? Ma magari, facciamo già fatica col discorso del coso, delle connessioni internet, che uno venga da un lato, cioè ad esempio c'è il, come si chiama, l'Epida, quello che ci fa, che fa il sito per il comune, no? Però non c'è una guida, cioè se io scarico qualcosa al Verginese, non ci sono dei richiami al Beriguardo, oppure un domani vai a Benvignante quando sarai strutturato. Cioè, sono andato una volta al Diamanti, ho scaricato la mia audioguida, è rimasto il commesso di stucco, fa: ma come ha fatto presto? Sì, perché usiamo l'Epida a Beriguardo come lo state usando voi. Oh, una cosa. Cioè, che lui non sapesse che è là dalla mattina alla sera, che tutti usano lo stesso sistema, anche quello. Cioè, è un po' sorprendente, un po' da latte alle ginocchia quello. Esatto. Come, poi, dato che gli spazi ci sono, il potenziamento di ciò che si può esporre, quello è sicuramente da fare, perché tantissimo materiale che è stato trovato a Fondo Tesoro e nella Necropoli è nei magazzini del Museo Archeologico di Ferrara. Quindi anche senza lì, richiamo a Vogenza. Sì, ma è nei magazzini, quindi in cassette chiuse. Che nessuno vedrà mai. Nessuno vedrà mai. Come ci ha detto, io ero presente quando venne nel 2015 il ministro Franceschini a fare l'inaugurazione qua. Lui in quel periodo ci diede i dati che c'erano attualmente. Allora, musei civici come questo qua, piccoli e grandi a Ferrara, erano, cioè a Ferrara in tutta Italia, erano 450 più o meno. Le opere esposte erano circa 450.000. Nei magazzini dei suddetti musei ci sono catalogati 4 milioni e mezzo di opere da esporre. Gli americani farebbero 20 musei con solo i nostri rimasugli di magazzino. E probabilmente altri tanti turisti quanto noi. Hai capito? Tu, Andrea, allora c'è stato un mio carissimo amico, un architetto di Ferrara, è andato anni fa in Scozia con i figli. C'è un sito archeologico oltre il vallo di Adriano. Ha speso 25 sterline, c'erano due pietre forate. Lo registro, mi ha detto quando è tornato: con quello che ho visto là, a Voghera, voi ci fate un urinatoio. No, non sono sorpreso. Ok? Che è un po' come abbiamo detto, la maledizione italiana di avere troppe opere troppo insieme. È anche difficile valorizzarle singolarmente, lì ne hanno due, però guarda, con due fanno 100. Siamo in 60 milioni, se ogni persona si prende in capo un'opera, abbiamo già coperto una bella fetta del nostro patrimonio culturale di cittadinanza. Magari tu io di mestiere faccio l'artigiano, ho fatto per un mio carissimo amico una teca in acciaio e vetro, lui va tutti gli anni, che gli piace da matti, in Messico. E là c'è una zona del Messico in cui fanno ceramiche come facevano in Spagna al tempo dei Borgia. È l'unico luogo in tutto il mondo, perché non lo fanno neanche più in Spagna quella tipologia di ceramica. E lui porta a casa da là. E ora è tutto esposto. Questo qua. Se tu a casa avessi anche una piccola teca, trovi qualcosa in giardino a casa tua, veditelo in bella vista. Tieni tante stupidaggini, al posto della gondoletta veneziana, sì, ti metti il tuo reperto del tuo territorio. Non mi sembra una cosa così devastante. Poi magari sei anche libero di farci le visite, cioè fai un micromuseo in casa tua, puoi vendere i diritti di uso dell'immagine, per esempio. Ma quindi sì, è una responsabilizzazione. Ma tu la responsabilizzazione è quello di guadagnarci, cosa ci vuoi guadagnare? Cioè, se uno vuole venire, ben venga. Mm-hmm. Ci sediamo, ci prendiamo un caffè, facciamo due chiacchiere, da dove vieni? Che cosa fai? Perché no? In Scozia abbiamo visto però che il fattore discriminante è la volontà di investire, oltre anche alla coscienza di non abbiamo così tante prove della nostra storia, dobbiamo valorizzarle tutte. Ah, per forza. Se avviene questo a livello individuale sarebbe interessante. Cioè, gli americani hanno una storia veramente minimale rispetto alla nostra, loro valorizzano qualsiasi cosa, basta che si abbia più di 100 anni, per loro è qualcosa di eccezionale. Cioè, noi andiamo indietro di 2000, cioè sul territorio di Vogenza è 2000 anni che circolano anime. Sì. C'erano dei luoghi d'Europa che non sapevano né leggere né scrivere, qua si parlava già un latino forbito. Non lo so, è una casualità. C'erano le condizioni climatiche, storiche, si creano le condizioni. C'è poco da fare. Quella ragazza nepalese che è venuta ieri, ovviamente nel suo luogo non ci potranno mai essere le condizioni che di vita. Anche se una maxi città adesso, però in quel periodo storico sarebbe stato impossibile che si fossero create delle situazioni come è successo nel Mediterraneo, quindi è stato un colpo di fortuna nostro, c'è poco da fare. E di questa fortuna noi dobbiamo riconoscerla, e anche riconoscere che non è solo un'opportunità, ma anche un nostro dovere. È un nostro dovere, è un nostro dovere. Io non lo so se gli altri cittadini d'Europa la pensano diversamente da noi, però a me è capitato in Francia, che non con un comune che siamo gemellati, quando loro sono venuti qua sono rimasti sorpresi da tante cose che c'erano, però io quando sono andato là in visita tutto ciò che hanno loro lo conservano molto più gelosamente. Per noi è sempre così, ma è una cosa tipica italiana. Poi è l'italiano in sé che quando una cosa, se, non è che si spenda troppo, insomma, se, lo si vede anche nelle problematiche emergenziali, come adesso noi siamo campioni nell'interventismo, nell'emergenza. Poi quando la cosa si chieta, ci sediamo, tranquilli, ma sì, si fa, lo faremo. È una specificità italiana molto tragica, però per me è anche il grosso problema che non... Anche noi siamo la patria dei grandi artisti, il guizzo, però quando c'è da fare lo sviluppo, delle volte, ascolta, ma se io vendo il brevetto, ma si arrangia il tedesco a portarlo avanti, tanto io mi incasso il milione di euro, mi compro il Ferrari, vado a fare un giro, poi valuterò poi. Il tedesco ne fa 1 miliardo. Dopo il tedesco lo moltiplichi. Bene. C'è qualcos'altro che ti ha colto in particolare di Berigoldo? C'è qualche altro motivo che ti fa dire sì, io sono contento di essermi svegliato qui a Voghera e voglio rimanerci qui? Allora, quello di lavorare su Berigoldo è stata una mia scelta, perché io mi trovo bene fisicamente. È stata una scelta egoistica la mia, in primis. Non una scelta di voler fare per la comunità, perché è un benessere mio. Sì. Quindi io quando entro in questo luogo mi fa star bene. Quindi ho deciso di cominciare a lavorare qua per una scelta egoistica mia, cioè proprio perché io mi trovo bene quando sono qua. Questo qua è una porzione di Voghera che mi distacca dalle problematiche tipiche della mia giornata. Io se mi voglio riposare vengo qua, anche se ci devo lavorare qua dentro. Sembra un assurdo, però è così. Però è una cosa eccezionale. Quindi... Non lo so se sia eccezionale, però è ciò che ti posso dire di cosa provo io come persona quando mi trovo qua dentro. Bene, ti ringrazio per le tue parole, è stata un'intervista molto interessante, sono venute fuori delle cose molto, molto particolari. Mi fa piacere che ti sia utile. Dopo finiamo l'abitatorio. Sì. Puoi chiudere la registrazione.